Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. Emma Marcegaglia, Radio 24, con questa crescita non si va da nessuna parte. Bin Laden, i dubbi dell'America sulle immagini, il Pakistan, un fallimento dell'intelligence. Medio Oriente, accordo tra le fazioni palestinesi, in corso la cerimonia. Un circo italiano in ostaggio in Siria, fateci rientrare in Italia, non vogliamo perdere tutto, l'appello a Radio 24. Buongiorno dalla redazione, buongiorno da Anna Migliorati. Il peggio, la parte più intensa della crisi è alle spalle, dice la presidente di Confindustria Emma Marcegaglia. Lo ha fatto questa mattina ospite ai nostri microfoni a Radio 24. Se il paese continua a crescere poco, non si va da nessuna parte, ha però aggiunto. E poi ha parlato di un conflitto istituzionale grave, riferendosi all'assise di sabato prossimo degli industriali a Bergamo, che sarà a porte chiuse. Ci siamo detti, ma in un momento difficile come questo, di grande discontinuità, dove stiamo uscendo dalla crisi ma c'è una grande incertezza, dove c'è uno spostamento di centralità economica verso l'Asia, dove la competizione è fortissima, dove l'Europa è ancora in preda alla crisi dell'eurodebito, dove c'è un conflitto istituzionale in Italia grave, come si fa? Ha senso fare un convegno tradizionale dove chiamiamo alcuni politici della maggioranza, dell'opposizione, i sindacati, alcuni imprenditori, e parliamo, sentiamo delle belle relazioni? Ecco, noi ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto no, un momento così difficile, un momento di così grande discontinuità, un momento un po' così, come dire, storico, tra virgolette, richiede una decisione diversa, richiede una decisione coraggiosa. E intanto domani a parlare sarà la politica, è convocato il Consiglio dei Ministri per esaminare il decreto sviluppo. Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, è così, è al primo punto della riunione dell'esecutivo il provvedimento per il rilancio dell'economia, diverse le leve su cui punta il governo, rinegoziazione dei mutui, riduzione della pressione fiscale, nuovo piano casa per l'edilizia privata, interventi per favorire la ricerca, rilanciare il turismo e il sud. Di fatto si tratta di cavalli di battaglia già noti, misure che necessitano un nuovo impulso come quelle contenute nel DDL concorrenza o come norme entrate in vigore ma sfruttate solo in parte. In particolare per i mutui i termini e il tipo di convenzione dovrebbero ricalcare l'accordo del 2008 e riguarderanno i prestiti fino a 150.000 euro concessi a tasso variabile a persone che hanno un reddito annuo non superiore ai 30.000 euro. Per l'edilizia invece si punterebbe su procedure semplici e veloci che superino i paletti messi dagli enti territoriali come è accaduto in passato. Altro capitolo, gli appalti pubblici, salirebbe da 500.000 a 1 milione di euro la soglia per i lavori senza bando di gara. Anche il fronte fiscale dovrebbe essere corposo, procedure semplificate per le imprese e per gli studi di settore e fiscalità di vantaggio per il sud. E da Roma è tutto, linea allo studio. Grazie a Vincenzo Miglietta. C'è una notizia dell'ultima ora: in seguito a una telefonata anonima sono in corso in Cassazione accertamenti per un allarme bomba. Un cane antiesplosivo portato dai carabinieri ha effettivamente segnalato la presenza di materiale sospetto. Si attende ora l'intervento degli artificieri, naturalmente vi terremo aggiornati. Andiamo invece ora però in Medio Oriente, perché è già stato definito un accordo storico e si è appena aperta la cerimonia per ufficializzare l'accordo di riconciliazione tra Fatah, Hamas e le altre 11 fazioni palestinesi, presente anche l'emissario ONU per il Medio Oriente. Allora io saluto Ugo Tramballi. Buongiorno. Cosa ci si aspetta da questo accordo al di là oggi della celebrazione ufficiale? Beh, di storico per i palestinesi ci sarà solamente la nascita di uno Stato sovrano e indipendente. Naturalmente per arrivare a quello è necessario che ci sia l'unità dei palestinesi, ma in questo caso specifico, paradossalmente, l'unità dei palestinesi contrasta con appunto il viaggio verso l'indipendenza nazionale, perché qui stiamo parlando di Hamas che controlla Gaza e dell'autorità palestinese di Abu Mazen che controlla la Cisgiordania, che hanno due politiche completamente diverse rispetto appunto alla trattativa di pace, che è lo strumento necessario per arrivare allo Stato indipendente. Hamas lo ha confermato anche nelle sue reazioni per l'uccisione di Bin Laden, no? Lo hanno considerato un martire dell'Islam, mentre invece Abu Mazen lo ha considerato per quello che è, per quello che era, un terrorista che non ha fatto del bene all'Islam e alla causa palestinese e araba in generale. Quindi sono in realtà due posizioni diametralmente opposte. Come si riconcilieranno? Questo è il problema. Quanto durerà questa unità se le posizioni sono così inconciliabili. Lo capiremo comunque entro i prossimi due mesi. Diciamo il primo passo di un progetto che però è tutto ancora da costruire. Sì, è chiaro, non si può pensare a una lotta di liberazione nazionale, ovviamente una lotta attraverso la politica e la diplomazia in questo caso, senza l'unità nazionale. Cioè qualsiasi movimento di liberazione nazionale ha dovuto avere comunque un leader, una leadership e un'unità nazionale. I palestinesi, e questa è la ragione per cui da 60 anni sono ancora lì senza uno Stato, invece questa cosa non sono mai stati capaci di raggiungere. Ora ci provano, ma continuando a mantenere però posizioni diametralmente opposte rispetto proprio al processo di pace. Grazie a Ugo Tramballe intanto. E allora noi veniamo invece proprio alla morte di Osama Bin Laden. L'America ancora si interroga in queste ore se diffondere al mondo le immagini sarebbero troppo atroci, questo quanto trapela in queste ore. Facciamo il punto. Paola Nania. Buongiorno, partiamo subito dalle ultime notizie che arrivano dal fronte pakistano. Secondo alte fonti di sicurezza pakistane, Osama Bin Laden sarebbe stato preso vivo dalle forze speciali americane e ucciso solo in un secondo momento, sempre comunque nei primi minuti del raid. Le fonti rilanciate dal sito Al Arabiya riportano la testimonianza della figlia di Bin Laden catturata insieme ad altri familiari durante il blitz in Pakistan. Intanto in visita a Parigi parla il primo ministro pakistano, chiede aiuto nella lotta contro il terrorismo e attacca. Il luogo in cui si nascondeva Bin Laden, ha detto il premier, è testimonianza del fallimento dei servizi di intelligence di tutto il mondo, non solo quelli del Pakistan, compresi quelli americani. Rimane come dicevi, il nodo delle foto del leader di Al-Qaeda ucciso, definite raccapriccianti dalla Casa Bianca, dall'amministrazione americana, ancora non diffuse. Noi abbiamo raccolto il parere di Sergio Romano, editorialista del Corriere della Sera. Sarebbe più facile rispondere se conoscessimo quelle foto, se sapessimo quale sia il grado di orrore che possono suscitare nell'opinione pubblica arabo-musulmana. Credo che gli americani stiano pesando su due piatti della bilancia due rischi diversi. Il primo rischio è quello per l'appunto di suscitare orrore nell'opinione pubblica. Il secondo rischio è quello di contribuire alla nascita di una leggenda su Osama Bin Laden sempre vivo. Concluderei che la pubblicazione delle foto comporta un rischio sì, ma meno grave della non pubblicazione. Questa dunque l'opinione di Sergio Romano, ti restituisco la linea. Grazie anche Paola Nania. E intanto, se è una buona notizia sul fronte della guerra al terrorismo, la morte di Bin Laden si rinnovano le preoccupazioni per gli ostaggi di gruppi affiliati ad Al-Qaeda. A rilanciare l'allarme è stato oggi il ministro dell'interno francese Guehan. Il faut savoir que, compte tenu della Bisogna sapere, dice, che tenuto conto della situazione in Libia, un certo numero di armi hanno lasciato quel territorio e sono finite nelle zone occupate da Al-Qaeda per il Maghreb islamico. È il gruppo che, precisa il ministro, ha in ostaggio 4 francesi. È il gruppo che, aggiungiamo, da febbraio ha in ostaggio anche l'italiana Maria Sandra Mariani, rapita il 2 febbraio durante un'escursione turistica in Algeria. Sulla sua sorte ben poche notizie sono di dominio pubblico. Il 18 febbraio la TV Al Arabiya ricevette e mandò in onda un messaggio della donna che in lingua francese assicurava di stare bene. La Maria Sandra Mariani. Poi più nulla di concreto. Lunedì scorso, proprio quando si diffondeva la notizia dell'uccisione di Bin Laden, l'agenzia France Presse batteva la notizia che un nuovo video, inviato dai rapitori, dimostrava che la Mariani era viva, ma il timore è che la morte di Bin Laden possa fermare i negoziati. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. C'è anche un circo italiano in ostaggio, è l'Embel Riva, è in tour in Siria ed è rimasto bloccato a causa della rivolta divampata nella regione. Romolo Napolitano ha raggiunto telefonicamente il proprietario del circo, Antonio Bellucci. Noi, diciamo, sotto ordini dell'avvocato dell'ambasciata, ci siamo portati a Tartus. Praticamente ora siamo fermi, ci hanno dato, diciamo, ospitalità pagando in un campeggio, no? Qui sarebbe il porto dove arriva la nave dall'Italia alla Siria, no? E adesso com'è la situazione? Non vi potete muovere da dove siete? Praticamente non ci danno il permesso al lavoro, perché con la situazione che ben conoscete nessuno in questi casi si prende la responsabilità per far lavorare il circo, no? L'ambasciata si sta interessando, però praticamente se non hanno notizie da Roma per poterci farci rientrare roba, perché noi non è che, diciamo, noi non possiamo abbandonare la nostra attività qua, noi qua ci risparmi di tutta la nostra vita, insomma, no? Famiglia, attività, animali, tutto a seguito nostro. Qual è il vostro appello a Frattini, al ministro? di farci rientrare, insomma, non è che possiamo, diciamo, rientrare alcune persone, alcuni rimanere, e gli animali qua se li lasciamo ce li abbattono pure, insomma, no? Il presidente Obama diede l'ok per la missione Bin Laden mentre attendeva la partenza dello shuttle, ricorderete, volo annullato, lo shuttle non è ancora partito, arrivano invece intanto però tristi notizie per l'italiano Paolo Nespoli, Gigi Donelli. Sì Anna, buongiorno. Sì, purtroppo la triste notizia è la morte della mamma di Paolo Nespoli, Maria, una signora di 78 anni che tra l'altro abbiamo visto era presente a festeggiare Paolo nel giorno in cui Verano Brianza, dunque il comune da cui appunto dove è nato Paolo, l'ha festeggiato prima della missione. Naturalmente notizia giunta immediatamente, di fatto gli astronauti sono in costante collegamento con la stazione e Paolo ha avuto, come tutti gli astronauti, accesso al telefono, purtroppo però naturalmente non sarà presente ai funerali. Si è parlato però anche di un sorvolo della stazione spaziale proprio su Verano Brianza. Beh, in realtà è possibile tecnicamente, nel senso che Verano Brianza è nella fascia di sorvolo della stazione spaziale. Peraltro ESA.int, c'è un software quindi dell'Agenzia Spaziale Internazionale che vi racconta momento per momento dov'è la stazione. In questo momento di fatto è a sud nell'Oceano Indiano. È vero che un conto è dov'è la stazione, un conto è dove si può vedere. Circa 40 minuti fa la Stazione Spaziale Internazionale era visibile da tutta l'Italia e in realtà non è molto difficile, la stazione si vede con una certa facilità, è effettivamente un punto luminoso con una traiettoria, diciamo, evidente, che non può essere quella di una stella per la sua velocità, e quindi si può identificare abbastanza facilmente. A quando l'incontro di Nespoli con Roberto Vittori? A questo punto ci sarà? A questo punto ci sarà se viene confermato il lancio dello Shuttle Endeavour il 10 di maggio, attualmente è la previsione, perché Paolo Nespoli tornerà con i suoi compagni della Expedition 26-27 il 23 di questo mese. Quindi diciamo che la finestra per realizzare questo incontro storico tra due italiani nello spazio si sta stringendo, vedremo. Vedremo che succederà. Grazie nel frattempo a Gigi Donelli. Il nostro sondaggio di questa mattina: candidati impresentabili alle elezioni, a chi spetta il controllo? Era questa la domanda che vi abbiamo fatto. Avete risposto i partiti per il 67%, la magistratura per il 33%. Le 13 e 16 minuti, le notizie di oggi di GR24, Emma Marcegaglia. Con questa crescita non si va da nessuna parte, ha detto questa mattina ai nostri microfoni. Bin Laden, i dubbi dell'America sulle immagini, il Pakistan attacca, è stato un fallimento dell'intelligence non catturarlo prima. La missione italiana in Libia, in corso il voto alla Camera. Un circo italiano in ostaggio in Siria, fateci rientrare in Italia, non vogliamo perdere tutto, l'appello a Radio 24. Il trattato di Schengen cambierà, ormai è certo. Come? Le proposte della Commissione europea, che saranno discusse il 12 maggio dai ministri dell'interno, sono state presentate questa mattina e allora ce le racconta Andrea Viali. Sì Anna, la Commissione europea propone di prevedere il ripristino dei controlli nelle frontiere interne anche in circostanze eccezionali, ad esempio in caso di forti e impreviste pressioni migratorie sulle frontiere esterne dell'Unione. La sospensione temporanea del Trattato di Schengen dovrà essere però decisa a livello comunitario, non più dai singoli stati come avviene oggi, ha precisato stamattina la commissaria europea Malmström, che ha illustrato a Bruxelles le linee guida del pacchetto di misure con cui la Commissione punta a venire incontro a quelle che sono le richieste dei paesi come Francia e Italia, che sono più esposti ai recenti flussi migratori dal Nord Africa. Le proposte di Bruxelles dovranno, come dicevi, essere verificate dai ministri degli interni europei il 12 maggio e poi dal Consiglio europeo del 24 giugno. Non dobbiamo lasciare da soli i singoli stati che si trovano ad affrontare direttamente l'arrivo dei migranti nordafricani, ha detto la Malmström, secondo la quale se Schengen ha dei punti deboli, questi andranno migliorati. La libera circolazione all'interno dei nostri confini è uno dei più grandi risultati raggiunti dall'Europa e su questo però non si può tornare indietro, ha comunque sottolineato la Malmstrom. A te la linea, Anna. Grazie Andrea. Intanto al terzo giorno di sciopero della fame sono meno di una decina gli immigrati tunisini che continuano la protesta alla stazione di Ventimiglia. Tutti gli altri sono tornati a mangiare i pasti serviti al centro di accoglienza. Nella giornata di ieri sono arrivati una settantina di migranti, ma in molti sono già ripartiti verso la Francia con i convogli di questa mattina. E andiamo ora a Montecitorio. Già vi dicevamo, si vota la mozione PDL Lega sulla Libia. A che punto siamo, Elisabetta Fiorito? Iniziate le dichiarazioni di voto qui alla Camera sulle mozioni sulla Libia, sta parlando Antonio Di Pietro. L'Italia dei Valori è contraria a qualsiasi attacco militare. PDL e Lega voteranno insieme la mozione del Carroccio, l'intesa grazie ad un testo che ribadisce la necessità di una data di fine missione, ma ne affida la scelta alla NATO. E anche il ministro degli esteri Franco Frattini lo ribadisce nella replica, durante appunto la replica nell'aula di Montecitorio, spiega che Gheddafi deve lasciare il potere e assicura sul ruolo svolto dall'Italia. Ma sentiamo Frattini. L'Italia, onorevoli colleghi, nelle azioni umanitarie per i libici è salita sul podio in Europa e nel mondo e spero che come me tutti ne siano profondamente orgogliosi. Sarà tutto questo un elemento chiave per la sicurezza dell'Italia, a cui la storia e la geografia hanno assegnato un ruolo centrale nel Mediterraneo. Un ruolo che, ne sono certo, istituzioni, politica e sistema economico nazionale ci chiederanno di esercitare con ancora maggiore coesione e determinazione. Il governo dà parere positivo solo alla mozione della maggioranza, no a quella dell'IDV totalmente contraria all'azione militare. Spetterà all'Aula decidere invece su quelle del terzo polo e del PD, che in pratica dicono sì ai bombardamenti. Il Partito Democratico ha presentato poi una nuova mozione a favore di un'iniziativa diplomatica per il cessato il fuoco, venendo così incontro alle esigenze dell'ala pacifista. Ma l'opposizione continua ad attaccare il governo. Sentiamo il segretario del PD, Pierluigi Bersani. Questa è una vicenda indecorosa. Domani non cambierà niente della presenza dell'Italia, avremo solo fatto uno scalino ulteriore in basso nel nostro prestigio internazionale. Tutta questa discussione è servita e serve solo ad aggiustare le questioni internazionali fra Arcore e via Bellerio, e questo lo vedrà tutto il mondo. E per il momento qui da Montecitorio è tutto, voi studio. Grazie ad Elisabetta Fioretto. Un aggiornamento sulla notizia che vi abbiamo dato nella prima parte del giornale: l'allarme bomba alla sede della Corte di Cassazione dopo due telefonate anonime. I controlli sono in corso, al momento l'esito è negativo, ma proseguono le verifiche degli artificieri. Blitz antianarchici questa mattina a Firenze. La Polizia di Stato ha eseguito 22 misure cautelari nei confronti di persone che gravitano tutte nella locale compagine anarcoide studentesca denominata Spazio Libero 400 Colpi. Si tratterebbe dei responsabili di una serie di danneggiamenti a bancomat di numerosi istituti di credito fiorentini e sabotaggio ai sistemi di videosorveglianza. Claudio Cracovia, vicequestore di Firenze. Il lavoro è un lavoro che inizia a maggio 2009, è un lavoro che riguarda una serie di reati, alcuni commessi in un contesto di manifestazioni, alcuni connessi in un discorso di azioni, diciamo così, dimostrative nei confronti di obiettivi istituzionali o finanziari, insomma pensiamo ai bancomat. Non sono tutti connessi a manifestazioni pubbliche. Certo, come ho detto, quelli connessi a contesti di ordine e sicurezza pubblica, a manifestazioni pubbliche, hanno determinato una ricostruzione più difficoltosa, ovviamente, anche perché abbiamo da un lato dovuto portare, come si dice, a casa il servizio di ordine e sicurezza pubblica senza danni per la pubblica incolumità e dall'altro ricostruire questi episodi, anche perché, ripeto, in ordine ai fatti delittuosi si procede, sconti non se ne fanno. E c'è un altro aggiornamento. Vi raccontavamo dell'accordo tra le fazioni palestinesi con Ugo Tramballi, in corso la firma in questi minuti per sancire una sorta di unità nazionale per i palestinesi. Ebbene, le agenzie raccontano ora di migliaia di palestinesi che stanno scendendo in strada nei territori per celebrare l'accordo di riconciliazione che viene suggellato in queste ore al Cairo. Raduni e manifestazioni di giubilo vengono raccontate sia in Cisgiordania sia nella striscia di Gaza. Torniamo in Italia. Ci sono più di 10.000 mamme teenager nel nostro paese, cioè di età compresa tra i 14 e i 19 anni. Così emerge da un rapporto di Save the Children. Jacopo Matano ha intervistato Raffaella Milano, direttrice del programma Italia Europa di Save the Children. Le mamme teenager in Italia sono circa 10.000, un numero in leggera crescita. I dati ci dicono che l'Italia ancora oggi fa troppo poco per sostenere la maternità, sia sul piano dell'inserimento lavorativo, siamo ai livelli più bassi in Europa per il lavoro femminile, e anche sul piano dei servizi per l'infanzia, quindi per noi è necessario proprio un forte cambio di rotta. Cosa si può fare nello specifico? Dobbiamo promuovere l'inserimento delle donne nel mondo del lavoro, fare in modo che il lavoro di cura sia conciliabile con il lavoro professionale. Sappiamo che in Italia quando si diventa mamma in molti casi si perde il posto di lavoro e questo non deve accadere. Naturalmente c'è anche bisogno di condividere di più le responsabilità familiari tra maschi e femmine. Noi siamo ancora in un paese dove gli uomini collaborano pochissimo alla gestione della vita familiare. Questa condivisione di responsabilità è anche un passo culturale che dobbiamo compiere. Lorenza Lai è ufficialmente nuovo direttore generale della RAI. Il CDA riunito a Viale Mazzini questa mattina l'ha nominata all'unanimità. Il Giappone invade New York nel vero senso della parola. Sentite infatti dove e da chi verranno prodotti i famosi taxi gialli. Saranno firmati dalla Nissan i nuovi Yellow Cab di New York. La casa automobilistica giapponese ha vinto la gara d'appalto per la fornitura di taxi alla città, battendo l'americana Ford e la turca Karsan. La monovolume NV200 sarà il primo taxi costruito appositamente per New York e diventerà l'unico taxi della città per un decennio, a partire dalla fine del 2013, ha detto il sindaco Michael Bloomberg. Il modello Nissan, versione modificata di un'auto già venduta in Cina, Europa e Giappone, sostituirà gli storici Four Crown Victoria, i taxi simbolo di New York immortalati in decine di film. Lei è Palantaini, il candidato alla presidenza? Sì, sono io. Io volevo attaccarci la sua fotografia qui, ma i padroni non vogliono perché dicono che è contro il loro interesse, ma non capiscono niente loro, sono un bracco di fessi. Beh, lo vuol sapere Travis, io ho imparato sul conto degli americani molte più cose viaggiando in tassi che sgobbando sui libri di scuola. I 13.000 previsti nella fornitura saranno prodotti in Messico nella fabbrica Nissan di Cuernavaca, prezzo di listino $29.000 l'uno. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E siamo al calcio, archiviata la buffata spagnola in Champions. Che ci aspetta ora? Saluto Dario Ricci. Sì Anna, buongiorno. Beh, ci aspetta un Manchester United Schalke 04 che è interessante sotto diversi punti di vista. Chiariamo subito, difficile che i tedeschi possano ribaltare all'Old Trafford il 2-0 subito all'andata a Gelsenkirchen, ma la partita arriva in un momento particolare per il Manchester, che di fatto vede riaprirsi la corsa al titolo inglese, che domenica dovrà affrontare proprio nello scontro diretto il Chelsea di Carlo Ancelotti. Ferguson quindi farà parecchio turnover, in dubbio Rooney per un problema fisico, la coppia d'attacco potrebbe essere Owen Berbatov. Per quanto riguarda i tedeschi, beh, l'allenatore Ragnik l'ha detto, anche contro l'Inter eravamo già fuori eppure c'è riuscita l'impresa, quindi c'è tanta voglia di provarci. Almeno il compito spetterà soprattutto a Raul, che di questa squadra dovrà essere il trascinatore. Fischio d'inizio alle 20:45, poi sapremo il nome di chi sfiderà il 28 maggio a Wembley il Barcellona per aggiudicarsi la Champions League 2011. E grazie a Dario Ricci. Noi per il momento ci fermiamo qui alle 14. Vi ricordo subito dopo il nostro GR c'è A Tempo di Sport. Tra poco Italia in controluce, in regia Roberto Scalfritti, da Anna Migliorati. Ancora una buona giornata. GR24, Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.